perché son nata femmina, perché son nata. C'è sta chi mi può prendere, chi mi può insurata. Sono figlia di un bestia e non mi può incatenare. Facita ma passa, facita ma passa. Nuanda fa paura, 38 è mazzata. A botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì. Chi non voleva sentire muore.